Economia in Europa. In collaborazione con Euronet. È di nuovo la Grecia al centro della cronaca finanziaria internazionale di questa puntata di Economia in Europa, nella quale parleremo anche di politica monetaria e delle novità in arrivo sulle strade in vista della patente europea nel 2013. Iniziamo dunque dalla crisi greca. Secondo indiscrezioni di stampa, si starebbe predisponendo un nuovo pacchetto di aiuti da 60 miliardi di euro per il paese, che andrebbe a sommarsi ai 110 miliardi sinora messi in campo da Fondo Monetario Internazionale e Unione Europea. Secondo un funzionario greco intervistato nei giorni scorsi dalla CNBC, 27 miliardi sarebbero destinati a copertura del fabbisogno 2012. Ulteriori 32 miliardi andrebbero a valere sull'anno successivo. L'ipotesi è stata smentita dal governo greco, ma sicuramente la questione sarà al centro della riunione Ecofin fissata per lunedì prossimo. Nel frattempo, l'agenzia di rating Standard & Poor's ha ridotto di 2 livelli il giudizio su Atene, portandolo da BB- a B e rendendo, se possibile, ancora più oneroso per il paese finanziarsi sui mercati. Tuttavia, guardando l'esito delle ultime aste di titoli di Stato, sembra che il mercato tenda a scommettere su una ristrutturazione, anche se non nell'immediato, del debito del paese. Il commento di Vittorio Darold del Sole 24 Ore. Ma allora, la situazione è questa. Venerdì c'è stata una riunione che doveva essere segreta dei ministri delle finanze europee del G20, quindi c'erano il nostro ministro Tremonti, il ministro francese Lagarde, Schäuble per i tedeschi e la Salgado per gli spagnoli. Che cosa è stato deciso? Oltre naturalmente al presidente della BCE e al presidente dell'Eurozona, Juncker. E, cosa si è cercato di fare? Si è messo sul tappeto tutte le ipotesi, fra cui quella che ha lanciato Der Spiegel, cioè quella di lasciare la Grecia al suo destino e farla tornare alla dracma. Bene, che cosa si è visto? Che questa ipotesi sarebbe più dannosa di quella che appunto si sta invece cercando di realizzare. Perché più dannosa? Perché molte banche tedesche, francesi, fortunatamente le italiane sono molto poco esposte, sono invece piene appunto ancora di questi titoli. Magari l'hanno svalutate nel frattempo nei loro bilanci, non sarà al 100%, saranno al 75%, ma si parla sempre di 40 miliardi per le banche tedesche, che come voi sapete stanno anche... 50 per quelle francesi. 50 per quelle francesi, cioè per di più in un momento in cui queste banche devono ricapitalizzare perché hanno avuto gravi perdite dopo la crisi appunto del 2008. Quindi abbiamo un problema ancora di una situazione finanziaria che bancaria europea che avrebbe un grave danno e una situazione dove il rischio è quello del rischio contagio, perché nel momento in cui tu fai saltare i bond greci, perché allora non anche quelli irlandesi e perché non ancora quelli portoghesi? Però ricordiamo che oggi proprio il tesoro greco è andato sul mercato e ha spuntato a 6 mesi i cosiddetti treasury bill, che per loro sono un po' liquidità immediata, quindi a 6 mesi ha spuntato un 4,90, circa 8 punti in più dell'altra asta e comunque meno dell'ultima asta che fecero i portoghesi, che gli andò proprio molto più male. Quindi è una situazione sempre un po' complessa, ci sono elementi di... Ma questo cosa vuol dire? Che uno si attende che la Grecia possa ristrutturare il debito ma non a breve, non a 6 mesi? Esattamente, cioè qualcuno scommette, dice il 5% per un bond che praticamente è liquido o liquidità insomma, di cui appunto il 35% sono stati venduti a stranieri, questo l'ho appena detto il responsabile dell'agenzia del tesoro greco. Intanto nel corso del weekend si sono rincorse voci su una possibile uscita di Atene dall'euro, eventualità poco probabile, rilanciata venerdì sera dal settimanale tedesco Der Spiegel, ma poi smentita sia dal governo greco che da Bruxelles. Cosa comporterebbe un'uscita del paese dall'euro? Sentiamo il parere del membro italiano nel board della Banca Centrale Europea, Lorenzo Binismaghi. Non è nell'interesse di alcun paese uscire dall'euro, sarebbe una situazione drammatica, oggi ho detto sarebbe un suicidio politico, credo, nessun capo di Stato, di governo riuscirebbe a sopravvivere di fronte alla propria popolazione una decisione di questo tipo. La Grecia deve attuare il programma che richiede una serie di misure che in questi mesi forse sono state ritardate e poi si vedrà quando si tratterà di tornare sul mercato se il mercato avrà sufficiente fiducia o no e altrimenti di vedere come aiutare la Grecia a mettere in atto appunto questo programma che poi porta al risanamento definitivo delle finanze pubbliche. Non teniamo più conto delle agenzie di rating, soprattutto nei paesi dove c'è un programma di risanamento col Fondo Monetario, riteniamo che le informazioni che abbiamo noi sono migliori. Continuano dunque a susseguirsi dichiarazioni sullo stato di salute del Paese, fra ipotesi di default pilotato e di ristrutturazione del debito. Cosa comporterebbe in particolare quest'ultima ipotesi per gli altri stati europei e per la stessa Banca Centrale? Il commento di Maria Paola Toschi, Market Strategist di JP Morgan Asset Management. Diciamo che facciamo un passo indietro e diciamo che la crisi del 2008 e soprattutto il caso Lehman ci ha fatto capire che una situazione di difficoltà di un emittente di obbligazioni in una parte del mondo può avere forti ripercussioni a livello globale. Quindi ci ha fatto tornare in primo piano quello che di cui abbiamo discusso in più occasioni in questi anni, ovvero il rischio sistemico. La maggiore preoccupazione quindi è che una situazione di ulteriore crisi, emergenza, in questo caso legata alla Grecia e quindi ad una perdita di valore dei titoli emessi dal debito dal tesoro greco, possa determinare una nuova crisi sistemica, quindi si possa produrre in debolezza, fragilità di tutta quella serie di operatori che hanno in portafoglio appunto titoli emessi appunto dalla Grecia. In questo scenario chiaramente il caso più negativo, il caso più difficile da gestire sarebbe un caso di default, che potrebbe quindi aumentare a dismisura questo tema legato proprio al rischio sistemico. Il caso invece della ristrutturazione del debito potrebbe comunque comportare dei rischi di questo tipo, perché potrebbe delinearsi una situazione di svalutazione comunque dei titoli emessi sempre dal tesoro greco. Per valutare questi rischi, per esempio, possiamo vedere come è composta la serie di sottoscrittori di debito pubblico. I soggetti più esposti sono chiaramente il sistema bancario greco, che, come è stato citato anche in precedenza, anche in questo caso sta comunque facendo fronte alla situazione, sottoscrivendo anche le emissioni che ci sono in programma in questo periodo, però una grossa fetta anche di debito è in portafoglio ad altri soggetti, in particolare a banche dell'area europea, soprattutto Francia e Germania. Un'ipotesi di ristrutturazione comporterebbe quindi una diversa gradualità, quindi con diversa gradualità una perdita di valore di questi asset, di questi titoli, e quindi questo potrebbe significare una fragilità ancora della struttura patrimoniale delle banche più esposte proprio alla Grecia, e quindi questo potrebbe avere ancora una volta delle ripercussioni a livello europeo. La situazione greca dunque è delicata anche per la stessa Banca Centrale Europea, che tra titoli greci acquistati direttamente e prestiti alle banche elleniche è esposta verso la Grecia per quasi 200 miliardi di euro. 50 miliardi è l'esposizione della Francia, 28 miliardi della Germania. L'esposizione delle banche italiane rispetto alla Grecia c'è invece è nulla, lo ha sottolineato il presidente dell'ABI, l'Associazione delle Banche Italiane, appunto Giuseppe Mussari. Pare che le banche italiane siano molto relativamente esposte, anzi per niente esposte rispetto alla Grecia. Sempre a proposito di Banca Centrale Europea, il presidente Jean-Claude Trichet ha gettato acqua sul fuoco, frenando le voci insistenti su un probabile rialzo dei tassi nel breve termine, atteso dai mercati nel mese di giugno. Ma non ha negato che sarà molto probabile un ulteriore incremento, oltre l'attuale 1,25%, a partire da luglio. Ricordiamo che la scorsa settimana il Consiglio Direttivo della Banca Centrale Europea ha deciso di mantenere il costo del denaro fermo. Sentiamo le motivazioni del presidente Trichet. The Governing Council decided to keep the key ECB interest rates unchanged. Il consiglio direttivo della BCE ha deciso di lasciare i tassi di interesse invariati dopo il rialzo di 25 punti base in aprile. Considerando le informazioni disponibili, continuiamo a vedere pressioni al rialzo sull'inflazione, prevalentemente legate ai rincari dei prezzi energetici e delle materie prime. I dati giunti di recente dal fronte macroeconomico confermano lo slancio positivo della ripresa economica nell'area euro, su cui tuttavia l'incertezza resta elevata. È essenziale che il recente sviluppo sul fronte dei prezzi non dia il via a un ulteriore aumento di pressioni inflazionistiche. Le attese circa l'inflazione devono rimanere ancorate e in linea con il nostro obiettivo di mantenerla al di sotto o vicina al 2% nel medio termine. Questo elemento è fondamentale per far sì che la politica monetaria dia il suo contributo al sostegno della crescita economica e della creazione di posti di lavoro nella zona euro. Continueremo a monitorare molto attentamente tutti gli sviluppi riguardo i rischi al rialzo per la stabilità dei prezzi. Restiamo in Europa, in particolare sulle strade europee. La riforma del codice della strada in Italia ha posto qualche paletto in più sia sulla preparazione sia sui requisiti fisici per ottenere la patente. Ma le novità più qualificanti non sono ancora in vigore nonostante la riforma si avvii al primo compleanno. E altre novità sono già pianificate per inizio 2013, in particolare il 19 gennaio, quando entrerà in vigore la nuova patente europea, cioè il recepimento delle ultime due direttive della Commissione europea sulla materia, portato a termine 10 giorni fa con la pubblicazione in Gazzetta del decreto legislativo 59 del 2011. Sentiamo alcune delle novità in arrivo con Maurizio Caprino del Sole 24 Ore. In parte la riforma ha anticipato qualche contenuto dell'ultima direttiva, che è del 2009 ed è stata recepita pochi giorni fa dall'Italia. Entrerà in vigore appunto il 19 gennaio 2013 e prevede appunto intanto che il patentino, quello che noi conosciamo oggi come patentino per i motorini, diventi una vera e propria patente, quindi si dovrà fare una visita medica uguale a quella delle altre patenti, per esempio. Poi verrà proprio ridisegnata la mappa di tutte le patenti superiori, diciamo quelle cosiddette professionali, quindi spariranno i certificati di abilitazione professionale, saranno sostituiti dalla carta di qualificazione che avrà un iter, insomma, bisognerà dimostrare di avere una certa formazione e tante altre micro novità di cui sicuramente avremo tempo e modo di parlare. E per Economia in Europa è tutto. Economia in Europa. In collaborazione con Euronet.